Era stata una giornata tutta no, e una notte da buttarsi giù da un ponte. Ero solo, che più solo non si può, e un'idea mi scavava un tunnel nella fronte. Nell'alba verde un sole in avaria seguiva l'auto in corsa lungo un prato. Fuori porta dopo i due cavalca via, vedo il posto di cui m'avevano parlato. Una strada in abbandono, una villa da film giallo, fermo l'auto, siamo in ballo, suono. Bisogna avere dei nervi d'acciaio, essere killer o sordi o dementi. Bisogna avere vissuto a Dachau per non crepare quando li senti. Era mille schiumanti di rabbia in un inferno di ferro e fetore, e ognuno urlava incollato alla gabbia: prendi me, no, prendi me, no, prendi me, no, prendi me, prendi me! Scusi, quello là nero con tutto quel pelo, quanto costa? Stesso prezzo per tutti, 5.000 più le tasse. È maschio o femmina? Maschio, sono 5.000 più le tasse. Non lascia niente per gli orfanelli del canile? Tenga. Grazie, grazie da parte di tutti i nostri amici e quattro zampe. Portate fuori il 4723! Ed eccoci di fuori, in mezzo al vento. Sei sporco e puzzi peggio d'un forzato, ma c'hai negli occhi tanto cioccolato che di colpo mi passa tutto e son contento. Mi metti una zampa sulla mano, già sei copilota, un giorno ti porto in aeroplano. Sei un vero artista, se spingo sul clacson tu abbai un pastore pop, ma chi l'avrebbe detto mai? I tuoi boschi son fondali di cartone, negli alberghi e nei teatri detti legge. Fai filare i macchinisti come un gregge, ma le meglio pipì le fai in televisione. T'ho comprato una compagna un anno fa, la sopporti e le fai fare dei bambini, ma il tuo vero amore sono i miei calzini. Questa sì che la chiamo alta fedeltà.